blood in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. Buonasera. Buonasera a tutti, allora, e benvenuti a questa nuova puntata, una nuova diretta speciale su Radio Wombat 1359 AM e una nuova puntata di Radio Contatto, la radio ai tempi del colera. In queste puntate speciali, dirette speciali, possiamo parlare di tutto, quindi scriveteci a frittole@gattini.ninja se avete richieste. E sono le 19:08, almeno secondo i potenti mezzi messi a nostra disposizione qui nella regia di Frittole, e andiamo a incominciare questa nuova puntata di stasera. Parleremo di un po' di cosine, manderemo qualche cosa che ci è piaciuto, che speriamo che stimoli riflessioni nuove e soprattutto che ci possano anche dare una mano ad affrontare sia questo periodo e sia qualsiasi cosa si prospetti per il nostro futuro, per il nostro presente, le persone che abbiamo intorno e quello che facciamo e vogliamo fare. In questo momento non vuole andare, ma perdo ogni contributo in questo momento. Infatti tantissime persone riescono a trasmettere con le regie da casa e le dirette speciali di queste serate ne sono infatti il risultato di questo sforzo collettivo. E una cosa che direi subito, da cui anche forse possiamo cominciare, è il fatto che oggi è ripreso il mercato contadino di Piazza Tasso. Anche io, si diceva anche nella diretta di ieri sera, annunciandolo, e abbiamo visto che il mercato, sebbene sia stato postato in Piazza del Carmine, ha avuto anche un discreto successo, e magari poi riusciremo anche ad avere qui con noi, ascoltare la voce di qualcuno che c'è stato e ci possa fare magari un piccolo report di quello che è stato, appunto. Sì, dalle foto che ci hanno mandato è andato molto bene, c'erano varie persone, tutte rigorosamente a distanza di un metro almeno l'una dall'altra, però insomma sì, quindi ogni venerdì in Piazza del Carmine in questo periodo, il pomeriggio, il mercato contadino ci sarà, quindi spargete la voce, arrivate a acquistare prodotti sani e genuini e contadini. tanti mercati contadini in molte città, non solo qua a Firenze, erano stati fermati in maniera abbastanza ingiusta e insensata, come si può capire anche senza star troppo a spiegare questa cosa. E, ma fortunatamente qui, qui sia a Firenze che, come abbiamo appreso anche oggi con gioia, anche a Torino, stanno ricominciando a tenersi. E speriamo che presto si possano ricominciare anche a Bologna, anche a Roma e così in tutte le città dove i volenterosi contadini, soprattutto dai nodi locali di Giannino Clandestino e non solo, riescono a portare alla gente dell'altro cibo che non sia solo il cibo spazzatura della grande distribuzione e la noia delle lunghe file alla Coop che sono così comuni in questi giorni. Tra i tanti testi, tra le tante analisi che in questo periodo come dire, riempiono anche le nostre caselle mail, riempiono lo spazio che dedichiamo quello spazio che dedichiamo a informarci e a pensare a quello che abbiamo attorno, a quello che ci sta succedendo. E volevo portare e leggere questa sera un articolo che è uscito sulla rivista cartacea Malamente. Malamente è una rivista che ormai esce da qualche tempo, è fatta da alcuni compagni nelle Marche che soprattutto si occupano di lotte territoriali. È fatta molto bene, ospita molti contributi e soprattutto ospita anche dei vecchi testi che vale la pena recuperare dal passato, perché molto spesso ci portano a riflettere sulla situazione presente, benché magari un articolo possa riferirsi a una situazione passata, letto nella situazione in cui siamo adesso può assumere tutto un altro valore e stimolare tutta una serie di riflessioni molto interessanti. Così mi è capitato appunto di imbattermi in questo articolo intitolato Il diritto al territorio. E in realtà è un intervento del teorico dell'anarchismo Miguel Amorós, che è stato tenuto parecchi anni fa, nel 2012 per la precisione, e un intervento proprio di Miguel Amorós, e ricordiamo uno storico dell'anarchismo che faceva parte del movimento situazionista in Francia, e che tenne presso una fattoria catalana occupata, Campiella, in appoggio appunto alla minaccia di sgombero che pendeva sopra questa esperienza. E in particolare, per cui è una riflessione soprattutto sul concetto di città. In questo momento mi è sembrato interessante, perché moltissimi di noi abitano la città e adesso si trovano molto spesso oppressi e intrappolati all'interno di un ambiente, all'interno di un territorio che diventa giorno dopo giorno sempre più ostile, sempre più simile a quella prigione come molto spesso veniva descritta la città, la prigione di cemento e vetro. Spesso questo ragionamento, tacciato come retorico, diventa in questi giorni sempre più vero nella fisicità materiale di moltissimi di noi. La società capitalistica tende a costruirsi come rete metropolitana. L'urbanizzazione generale è il processo di adattamento del territorio alle esigenze dell'economia. L'espansione illimitata delle città conforma la società cosiddetta urbana. La disponibilità di carburanti a buon mercato, che ha reso possibile spostarsi su mezzi privati e dato via alla rivoluzione verde e alla delocalizzazione della produzione agricola, ha determinato questo tipo di società, o in altre parole, ha provocato la scomparsa dell'agricoltura tradizionale e del suo mondo. Le metropoli si sono emancipate dai loro orti periferici, annichilendo la vita e la cultura contadina. L'alimentazione, un tempo tradizionale dei loro abitanti, e la coltura dei campi sono ora affare dell'industria agroalimentare e del mercato mondiale del petrolio. Nucoli di villette popolari, di campi da golf e centrali eoliche sono lo scenario per il cibo industriale, standardizzato, eccessivo, manipolato, adulterato e infine insano. D'ora in poi l'uso del suolo è determinato esclusivamente dai bisogni degli agglomerati urbani. Lo spazio che li circonda diventa immediatamente spazio suburbano, sottomesso a molteplici inquinamenti. Viene inghiottito dalla città. Così la sentenza pronunciata nei confronti dell'ambiente rurale è stata eseguita. Diventerà capitale immobiliare. nessuna attività agricola può sussistere nei pressi degli agromelati urbani, nemmeno come semplice passatempo, essendo la terra interamente trasformata in capitale. Nessuna città, intesa come progetto di coesistenza collettiva, con una relativa autonomia, può esistere perdendo i suoi limiti. Il tessuto sociale non cresce con il tessuto urbano, che viene determinato sempre più dalla circolazione dei veicoli. La sociabilità si dissolve con l'ingrandirsi dei quartieri dormitorio e la proliferazione delle strade di grande comunicazione. L'approvvigionamento tramite il mercato globale impone un modello di alimentazione spazzatura. La vita vissuta in uno stabulario e motorizzata si riduce al consumo di merci. Le istituzioni cittadine sono strumentalizzate dagli speculatori immobiliari. La città in espansione, disarticolata, cade nelle mani di dirigenti senza controllo che la governano come fosse una loro impresa e gestiscono il territorio in conformità ai desideri dei costruttori. Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. E ti pare una cosa facile? E cambiamo il piano regolatore. Che cosa? E voi cambiamo il piano regolatore. Non c'è bisogno. La città vai là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila, eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto. Eccolo là. Quello è l'oro oggi. E chi te lo dà? Il commercio, l'industria? L'avvenire industriale del mezzogiorno, sì. Investi i tuoi soldi in una fabbrica, sindacati, rivendicazioni, scioperi, cassa malattia. Ti fanno venire l'infarto queste cose. E invece niente affanni e niente preoccupazioni. Tutto guadagno e nessun rischio. Noi dobbiamo fare solo in modo che il comune porti qua le strade, le fogne, l'acqua, il gas, la luce e il telefono. Dove dirigere l'espansione della città? Il problema è stato lungamente dibattuto. Alla fine una commissione di urbanisti e di esperti, appositamente creata, ha scelto la zona a nord della città, dove ora c'è soltanto una squallida estensione di terreno. Il comune porterà strade, acqua, luce e gas e tutte le altre indispensabili opere pubbliche. Rivendicare un utilizzo razionale e sostenibile del suolo, abbandonato o meno, vuol dire proclamare la resistenza all'urbanizzazione e all'industrializzazione come base per qualunque occupazione che si realizzerà in nome della ragione e della sostenibilità. In fin dei conti, l'avvenire della società dipenderà dalla maniera in cui sarà utilizzato il territorio. Se è lavorato collettivamente e in reciprocità con la natura, le forme di convivenza al suo interno evolveranno verso l'equilibrio e la libertà. Se al contrario è sfruttato, è inquinato, distrutto, il territorio non sarà altro che il riflesso di una società amorfa e schiavizzata, adatto a masse addomesticate e confinate in metropoli prigioni, che nel fine settimana in tristi seconde case consumano l'immagine di una natura rurale la cui realtà non si trova più da nessuna parte. La funzione sociale del territorio è fondamentale per gli umani. Il territorio deve istruire e formare per un'azione comunitaria in simbiosi con la natura, con l'ambiente. Deve essere la base della dignità dell'esistenza, oggi talmente sottomessa a ogni tipo di condizionamento tipicamente urbano. Il denaro, la solitudine, la massificazione, le nevrosi, lo spreco, l'ignoranza. Di conseguenza, da un punto di vista anti-industriale, l'utilizzo dello spazio deve essere ridefinito in una nuova carta delle libertà contenente un nuovo diritto, il diritto al territorio. Diritto di scegliere un modo di vita non urbano, diritto di insediarsi in campagna, per esempio, diritto di godere dell'ambiente, diritto di piantare e coltivare sementi autoctone, di prodursi i propri alimenti e consumarli, diritto di abitare abitare nel vero senso del termine, che significa prendere parte alla vita sociale e non solamente occupare un luogo fisico. Diritto al territorio, dunque, che comporta il dovere di preservarlo, riabilitarlo, difenderlo. Quindi dovere di opporsi alla sua degradazione. Diritto a mettere radici e a conservarle. La difesa del territorio si contrappone frontalmente al diritto di proprietà e alla pianificazione infrastrutturale e urbana. Quest'ultimi, infatti, difendono prima di tutto gli interessi privati della costruzione, dell'agrobusiness o dell'energia. In ogni caso, in particolare nei periodi di crisi economica, nel momento in cui il ciclo speculativo rallenta, il potere non ha alcun problema a utilizzare un linguaggio verde, tirando fuori non solo il solito argomento della sostenibilità, ma perfino quelli della biodiversità e anche dell'agroecologia. A partire dalle istituzioni locali, spesso con la complicità di associazionismo, si organizzano dei piccoli mercati biologici, dei gruppi di consumatori, o si concedono orti urbani ai disoccupati. Si arriva anche a creare una banca delle terre agricole e promuovere affitti che includano una clausola di preservazione del paesaggio o di corretto riciclaggio dei rifiuti, per esempio. Evidentemente quella che viene presentata come un'esperienza di economia sociale è una fregatura che non ha niente a che vedere con l'agroecologia né con la sovranità alimentare. Perché queste ultime combattono apertamente l'agricoltura industrializzata e globale e difendono l'autogestione nel mondo rurale. Mentre nelle suddette esperienze l'auto-organizzazione lascia il posto alla mediazione e al controllo, predisposti in ogni momento dall'apposita burocrazia. In realtà è una forma di assistenza pubblica adatta alla crisi, il cui scopo consiste nel dare un volto piacevole all'immondo commercio agricolo e allo stesso tempo nascondere gli scandalosi livelli di disoccupazione o di esclusione. L'ideologia verde dei dirigenti segue in parallelo, da alleata, lo stesso cammino della distruzione del territorio. La vera apocalissi è che la tecnologia, l'era della scienza applicata, farà dell'uomo qualcos'altro da quello che era prima. E adesso che è successo qualcosa che non ha equivalenti nella storia dell'uomo. E noi siamo un po' terrorizzati dell'idea che i nostri discendenti, i nostri figli non siano più come noi. È un po' la fine del mondo. Evidentemente la spinta è venuta dal fatto che io detesto soprattutto il potere di oggi. Ognuno odia il potere che subisce, quindi io odio con particolare veemenza il potere di questi giorni, oggi 1975. È un potere che manipola i corpi in un modo orribile che non ha niente da invidiare la manipolazione fatta da Himmler o da Hitler. Li manipola trasformandone la coscienza, cioè nel modo peggiore, istituendo di nuovi valori che sono valori alienanti e falsi. Ecco, sono i valori del consumo che compiono quello che Marx chiama un genocidio delle culture viventi, reali, precedenti. E allora questo tipo di cambiamento ha diffuso tra gli italiani una ideologia, l'ideologia dell'edonismo consumistico, che è un'ideologia a suo modo magari stupidamente laica e razionale, ma stupidamente laica e razionale, miope, ristretta, cioè questa ideologia tocca tutti gli italiani, un intellettuale compreso, anch'io in un certo senso, senza volerlo partecipo a questa ideologia, perché anch'io sono detto di avere una macchina, oppure di spingere un bottone e di avere il riscaldamento, non so come dire, anch'io in un certo senso tendo ai beni superflui, sono caduti dei valori e sono stati sostituiti con altri valori. Sono caduti dei modelli di comportamento e sono stati sostituiti da altri modelli di comportamento. Questa sostituzione non è stata voluta dalla gente, dal basso, ma sono stati imposti dal nuovo potere consumistico, cioè la grossa industria italiana plurinazionale e anche quella nazionale dell'industria Lotti voleva che gli italiani consumassero in un certo modo un certo tipo di merce e per consumarlo dovevano realizzare un altro modello umano. Ecco, un vecchio contadino tradizionalista e religioso non consumava delle sciocchezze, capito, reclamizzate dalla televisione. Ora bisogna fare in modo che invece le consumasse. Approfittando della debolezza del movimento anti-industriale e di difesa del territorio e del fatto che le pratiche neorurali sono spesso depoliticizzate e che le esperienze agricole restano spesso separate dalla protesta sociale, sullo stesso terreno dell'agroecologia e della sovranità alimentare si alzano delle voci per chiedere un patto sociale tra lo Stato e i cittadini, ovvero tra lo Stato e i partiti rappresentativi, per aumentare la quota fiscale destinata all'ambiente, sovvenzionare la creazione di cooperative, stabilire una politica protezionistica per la produzione biologica. Una sorta di ruralizzazione di Stato, consigliata da ecologisti e cooptati che cercano con cura di conciliare le necessità marginali del settore con lo sviluppo brutale del capitalismo. Ruralizzazione con limonata bio, a beneficio di una potenziale piccola borghesia agraria che si occuperà dell'approvvigionamento alimentare verde per quella fetta raffinata e radical chic della classe media. Il territorio oggetto è un territorio morto, adatto solo a finalità commerciali. Per dargli vita non si deve cercare di aggiungere accessori decorativi alla politica e all'economia di mercato, ma demercificare le campagne, il vivente e la società in generale. Ciò implica una deurbanizzazione, una deindustrializzazione e una decentralizzazione, quindi la sparizione del capitale e di conseguenza anche dello Stato. Di conseguenza, se anche questo passa attraverso la costruzione di cooperative integrali o di reti solidali, implica non di meno un deciso conflitto e non un patto con le forze politiche ed economiche che ci governano. In ogni caso, i nemici della libertà continueranno a parlare di sviluppo sostenibile o di rigenerazione ambientale e democratica, come se tutto questo fosse possibile in un mondo iperurbanizzato e industrializzato, fino al momento in cui un movimento di massa, una massa critica, frutto di mobilitazioni difensive nei territori e nelle metropoli, metterà fine a questa demagogia e farà gettare loro la maschera. Se l'obiettivo è la ricostruzione della società civile e della ricchezza della cultura contadina per la formazione di comunità autonome locali, non possiamo permetterci né una briciola di capitalismo né un millimetro di Stato. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico disse, qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. Così, wow, wow. Passano gli anni, ma 8 sono lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada. Ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comperarla. Torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, da trame cemento. Da dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Continuano a costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba. E no, e andiamo avanti così, chissà come si farà. Il capitalismo non funziona se non cresce, ma non cresce uniformemente. I centri urbani assorbono tutte le risorse dei territori e li trasformano in periferie. Quando i limiti ecologici saranno superati, cioè mano a mano che si esaurisce il capitale naturale o capitale territorio, andrà disfacendosi anche il capitale sociale o capitale città. Il modo di vita consumista e motorizzato non potrà più essere assicurato. In quel momento le colonne del sistema tremeranno, perché lo sforzo richiesto ai sottomessi sarà eccessivo e il legame tra l'obbedienza ai dirigenti e la prosperità promessa si rivelerà come una menzogna e porterà gli individui a prendere coscienza della propria oppressione. Le masse, cercando di sopravvivere, diserteranno i palazzoni dove erano state incarcerate. Allora arriveranno i barbari, saccheggeranno i templi dell'impero del denaro, gli imperatori nudi scapperanno dalle finestre e nessuno li rivedrà più. Bellissima lettura di Bepi, di un certo peso, direi, dobbiamo dirlo. Direi che ci hai fatto prendere bene, Bepi. No, grazie di scherzo, sei veramente un figo quando leggi. No, grazie, guarda, volevo aggiungere solo una cosa, che per chi se lo fosse chiesto, le due tracce audio vengono rispettivamente la prima che è andata in onda dal film di Francesco Rosi, Le mani sulla città, che parla appunto proprio di questo passaggio, di come è stato creato lo spazio urbano in cui molti di noi attualmente vivono. Ma vedere in un film del 1963 queste dinamiche all'opera, sezionate in una maniera che era quella del successiva al neorealismo italiano da un regista acuto come Rosi, è veramente interessante. Un film che mi sento di consigliare a chiunque adesso sia a casa e magari si chieda se si stia guardando The Walking Dead o qualche altra cassada, guardatevi anche Le mani sulla città. Il secondo invece era tratto da un mediometraggio di Bertolucci, uscito nel 2006, che in realtà è stato un montaggio di un'intervista a Pierpaolo Pasolini, e nel 1975 intervistato sul set di Salò o Le 120 giornate di Sodoma. Sì, quello insomma lo consiglio, ma solo a chi se la sente, raga. Sì, dipende che prospettive avete per la vostra serata, insomma. Beh, insomma, Radio Contatto prosegue a discapito della nostra voglia di parlare, perché veramente avremo più voglia di abbracciarci che continuare a dire cose così innominabili. Non so, va bene, comunque aspettiamo ospiti in studio, salutiamo di nuovo gli ascoltatori e le ascoltatrici che da 50.000 sono tornati a 20, vabbè. Sembra ragionevole, e mi raccomando, ciò che ci meritiamo, scriveteci a frittolechiocciolagattini.ninja, perché noi aspettiamo la vostra voce, e se andate su bomba.blog.org trovate anche fantastici strumenti per condividere con voi le proprie note, le vostre. Va bene, basta, hai fatto il tuo spot. Non so che altro dire. Beh, davvero mi hai lasciato senza parole. No, dai, raga. Ci siamo usciti cambiati da tutto questo. Beh, sì, era più per suscitare magari un inizio di riflessione, più che voler metterci dietro parole, quindi le lasciamo là. Secondo me Beppe ci sta dicendo che è un gran casino. Cioè, l'intento, quello che mi era sembrato particolarmente interessante in realtà era una riflessione sul fatto che ci sono dei motivi per cui ci ritroviamo nella situazione in cui siamo, e analizzare questi motivi partendo dal territorio, dall'ambiente in cui siamo immersi, che ci circonda, che ci ha formato, è particolarmente interessante, e in un periodo in cui volenti o nolenti siamo tutti quanti costretti a rimettere in discussione molte delle cose che davamo per scontate. Che... non è per niente semplice, ecco. Diciamo che se oggi apri il giornale, anche l'informazione alternativa, diciamo che è difficile realmente navigare, far camminarsi tra tutta questa voglia di scrivere minchiate, opinioni, cioè c'è da selezionare, ecco. E come fare? Dacci il segreto, cioè, è una buona memoria. No, se non hai letto prima, cosa puoi trovare? No, la cosa da fare ovviamente è, insomma, cioè, sempre la stessa, pensare molto bene con la propria testa, possibilmente usando tutti gli strumenti, che il leggere libri, il parlare con le persone che magari riteniamo interessanti ci hanno fornito, insomma utilizzare primariamente insomma, uno strumento del pensiero della cultura in questo momento qua, che in cui si tende troppo spesso forse a ragionare con la pancia, diventa sempre più importante. Mio padre diceva che la testa non serve solo per andare dal barbiere. Grande il babbo del Reve. Io spero comunque che nelle prossime dirette saremo in grado di non consigliare tanto più degli articoli, ma proprio dei veri e propri libri. Anche qua, a costo di risultare pedante, però io ho questa idea balzana che anche questo momento vada analizzato con dei ragionamenti profondi che richiedono dello spazio, che richiedono del tempo, che richiedono dell'attenzione. Ecco, fortunatamente hanno inventato questa cosa fighissima, che per cui si possono lasciare scritte le cose che ci vengono in mente, delle buone idee, che sono i libri, e quindi usiamoli, anche se le librerie sono chiuse, visto che i libri non sono stati considerati beni di prima necessità. Sì, esatto, magari ecco, se arriveremo a consigliare bene dei libri e recensirli, adesso ci staremo muovendo anche per farlo, e ordinateli presso una libreria indipendente o direttamente dalle case editrici. Grazie Debbie per essere con ogni semplificazione, e manderei un messaggio passiamo a una lettura tratta da carmillaonline.com, sito di cultura e controinformazione. Si chiama Chiamate telefoniche 1 di Piero Cipriano. Non sappiamo chi sei, ma ti salutiamo. Questo scritto ha per oggetto il virus e ha per titolo un libro di Roberto Bolaño. La storia inizia quando il virus ancora non era epidemico, ancora si poteva uscire di casa, fare la spesa, correre nei parchi, ancora non era iniziato il trattamento sanitario obbligatorio con obbligo di dimora a casa per chi una casa ce l'ha e possibilità di uscire solo se i motivi sono comprovati. Erano i primi di marzo e andavo come sempre in ospedale, il luogo perfetto per lasciarsi incubare dal coronavirus. L'ospedale, dove ancora non era arrivato, ma di lì a poco sarebbe arrivato, era questione di giorni, ore. E il nosocomio, dove lavoro, vivo, penso, dormo, mangio, parlo, impasticco, pensavo, diventerà un lazzaretto che regalerà anche a me la peste del nuovo millennio. Quel giorno andai e per fortuna dormii fino alle 6 del mattino. Un'insolita calma, come sempre, calmo prima della tempesta. Alle 6 del mattino, quando pensavo di averla ormai scampata, chiamo al pronto soccorso. Era Edvige, l'infermiera altissima, altera. Diceva, c'è uno venuto con 8 poliziotti. Era già venuto 5 giorni fa. Legato, sedato, poi ci avevo parlato, l'avevo fatto sciogliere e se n'era andato. Ora ritornava. Diceva al poliziotto che di continuo era intorno al Vaticano per incontrare il Papa. Deve convincerlo, non si sa cosa. Ci parlo, gigantesco, esaltato, pazzo. Dice, Dio mi è venuto in sogno e mi ha detto cosa fare. In 30 minuti ho scritto 130 pagine che ho consegnato a un sacerdote del Vaticano. Ho una missione, nessuno mi fermerà. Lei è un incapace, pensa di sapere quello che ho in testa, ma sono io che so leggere tutto quello che lei ha nella testa. Lei sarà licenziato da questo posto. Io riformerò gli ospedali, riformerò la polizia, riformerò lo Stato, riformerò il mondo. Lo lascio fare. Lo lascio sfogare, lo lascio insultare, lo lascio delirare. Poi gli dico... Per uno che ha visto Dio, lei è poco gentile. Anch'io ho visto Dio, per questo la tratto con gentilezza. Perché lei è un figlio di Dio, io pure sono un figlio di Dio. Lei deve essere comprensivo con me, non sono perfetto come non lo è lei. Abbiamo entrambi visto Dio, dovremmo essere entrambi più sereni. Io pure so quello che lei ha nella testa, lo leggo. Come lei legge me, io leggo lei. Ora lei farà queste analisi, prenderà questi farmaci che getterò nelle vene. Farà un breve ricovero. Chi lo decido io, con la grazia di Dio. E così è stato. Finito l'intervento, attraverso il lungo corridoio del pronto soccorso. Quella notte è entrato il primo paziente in questo nosocomio infettato di coronavirus. Il virus è nell'aria, si sente attraverso l'aria dove goccioline di fluggio invisibili orbitano come pianetini impazziti intorno alla mia scia. Sopra questi pianetini c'è questo virus che si considera il piccolo principe di questo suo pianetino detto fluggio. Lui pensa di essere davvero un principe, lo sa di avere poche sequenze di DNA, lo sa di essere poco meno che vivo, eppure non immagina di essere diventato l'incubo di questi esseri viventi che si ritengono quasi divini, noi gli umani, così intelligenti, eppure adesso così spaventati, attraverso questa galassia di goccioline di fluggio lasciate dal paziente infletto in isolamento, eppure non contraggo l'infezione, oppure sì, non lo saprò mai perché gli operatori sanitari come me, anche in prima linea, se sono asintomatici e febbrili, non potranno mai fare il costoso tampone, test, neppure sicurissimo, ma meglio che niente, non siamo mica calciatori o politici noi altri per avere il tampone, insomma, non mi infetto ancora. Passano i giorni, ogni giorno arrivo nel nosocomio. L'Italia ha una paura di morire per un virus. Il mondo ha paura dell'Italia. Ho il cercapersone suona. Non l'ho disinfettato, mi lavo spesso le mani. Adesso siamo già al 20 di marzo e tutti i giorni di questa settimana appena trascorsa e di quella precedente sono uscito di prima mattina arrivando in ospedale. Mi sono cambiato, ho indossato divisa bianca, camice e mascherina. Io che mi fregiavo di essere un medico basagliano senza il camice mi sono ritrovato intabarrato come un chirurgo in sala operatori, catapultato in prima linea in pronto soccorso a gestire gli arrivi di pazienti intossicati, ubriachi, agitati, eccitati, tagliati, suicidati, eccetera. Quel tipo di pazienti, meno pazienti, perché vai a spiegare a loro che dovrebbero indossare la mascherina, perché potrebbe esserci un virus infido, eccetera. C'è chi ti dice che il virus non esiste, chi ti dice che l'ha inventato lui, chi ti dice che lui è Dio, quindi immune dal virus, chi ti dice che l'hanno messo in circolo gli americani, anzi i cinesi, anzi quelli dei vaccini, anzi gli extraterrestri, eccetera. E non è detto che una di queste tesi non possa essere quella giusta. In ogni caso, la mascherina non se la tiene, quindi fare attenzione che non venga legato, perché la pazienza degli operatori è al minimo e non vogliono rischiare di infettarsi, e se quello non rispetta le regole si espone al rischio della contenzione. Insomma, tutta la settimana va avanti così. foolishness. Now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now what she told you's gonna get it. I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. That's a gentleman to be gentle. Is it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow, where did you go? Where did you go? Where did you go? You took a left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took a left off last lap lane. You were just sounding. Siete tornati su sul Wombato e se non mi avete sentito finora non so che dirvi, andate a leggervi l'articolo, noi ci sentiamo ma voi non ci sentite, insomma. Ma nel podcast sarà ascoltabile, anche perché il reverendo è veramente bravo a leggere con questo fare teatrale, secondo grazie, me. Grazie, modi continuo, bando alle ciance. Iniziano a questo punto le chiamate telefoniche. Sono uno psichiatra più o meno conosciuto per la cosiddetta riluttanza ai manicomi. Qualcuno se ne ricorda e mi chiede lumi. Come ci comportiamo adesso che c'è il virus? C'è chi mi chiama al numero dell'ospedale, chi mi chiama sui social, chi persino al telefonino. Ma come ha fatto ad avere il mio numero? Oppure mi chiama qualche paziente che ho avuto anni fa e che si ricorda di me adesso che è agli arresti sanitari. Dottore, lei mi disse che correre era meglio degli antidepressivi. Vivo in campagna, come faccio adesso che il governatore De Luca ci spara se usciamo? La prima chiamata degna di nota però è quella di Bellotti, l'uomo che ricoverai perché volevo a tutti i costi parlare col Papa. Dopo dimesso, il giorno in cui Papa uscì a spasso con la scorta per andare a baciare il Cristo degli appestati, a cui chiese di salvare il mondo dal virus con la sua mano, mi chiama. E il dottor Cipriano, è proprio lei, sicuro di essere lei, non posso dirlo ad altri che a lei. Credo di essere io, parli pure. Era quello che volevo dire al Papa, non ci sono riuscito, ma lui mi ha ascoltato lo stesso, ha fatto ciò che andava fatto, recarsi al Cristo degli appestati e credere la grazia, lui doveva farlo, adesso siamo salvi, il virus, almeno questo virus, non sarà lui che ci farà fuori, per un po' siamo al sicuro. Attacco, chi era? Fa la mia collega, Caltabellotti, quello che avevo ricoverato, dice che grazie a lui il Papa ha capito e è andato a implorare la grazia di Cristo, ora siamo salvi. La mia collega fa, ma il Papa ce l'aveva un'autorizzazione per uscire? Come dici? Ce l'aveva il comprovato motivo? Era un motivo di lavoro la sua uscita? Di salute? Di necessità? Perché è uscito? Beh, le dico, possiamo farla entrare nei motivi di lavoro, se ci pensa esercitava il suo ministero, intercedeva con Dio per la nostra salvezza del virus. Non l'ho convinta. Avrebbe, secondo me, fatto il TSO pure al Papa. Le chiamate poi sono continuate, messe in fila, in sequenza le chiamate telefoniche di questi giorni, casuali, sincroniche, compongono tante tessere di un puzzle che diventa narrazione, teoria, spiegazione, soluzione, vediamo un po' chi ha chiamato. Ah, dicevo, quel mio vecchio paziente fobico della campagna, mi chiama per lamentarsi che in campagna questo governatore dal piglio autoritario si rammarica perché in Cina hanno i mezzi repressivi che lui non ha, per governare le epidemie. Dice che il governatore campano ha dichiarato in un video di voler fare un'ordinanza per impedire alla gente di muoversi per strada. Chi viene trovato a passeggiare o se ne sta seduto su una panchina dovrà stare in quarantena per 15 giorni e se non viene rispettata la quarantena avrà un processo penale. Gregorio da Pescara, non lo conosco, non so che problemi abbia. Ha letto un paio dei miei libri, mi scrive, ma non gli basta la lezione delle carceri? Detenuti ammassati in spazi troppo sedati, troppo stretti, sedati da psicofarmaci o piace, almeno la metà dei detenuti assume psicofarmaci, il carcere. Ha ragione lei, dottore, è indistinguibile da un manicomio. Che esplodono, si ribellano, protestano, assaltano le medicherie, si uccidono con psicofarmaci e metadone. Ebbene, io lo so che tra poco esploderanno le case, gli appartamenti, i condomini monolocali trasformati in carceri, in arresti domiciliari, in obbligo di dimora. Tra poco, per uscire di casa, le persone avranno il comprovato motivo di doversi recare al pronto soccorso da lei, dottore, per ricevere antidepressivi, ansiolitici e stabilizzatori dell'umore. Di questo passo, tutti salvi dal virus, ma tutti schizzati e sotto psicofarmaci. Ale! Carmine da Reggio Calabria. Un grave ossessivo che lava le mani 50 volte al giorno, timori di contaminazione continua. L'ossessivo, si dice, ha il Thanatos costantemente conficcato nel cranio e si difende dalla costante incombenza della morte coi suoi rituali, tra tutti domina il lavarsi. Dice, dottore, con quella parlata calabra aspirata, finalmente non mi sento più malato, qui tutti si lavano le mani, nessuno esce, si tocca, si stringe le mani, non ho più bisogno di giustificarmi, per me questa è la normalità. Paolo da Milano, pure lui mi chiama al numero del reparto ospedaliero, dice che ho letto Agamben, tutti danno addosso ad Agamben, il povero Agamben. Ma che vi ha fatto a gambe? Pecore, che non siete altro. Mentre parla vado sullo smartphone a leggere ciò che ha scritto a gambe. Ha scritto che l'ondata di panico che ha paralizzato il paese mostra con evidenza che la nostra società non crede più in nulla se non nella nuda vita. Ovvio, dice Paolo, una società materialista che crede solo nella vita e non sa niente della morte non si è mai interrogata sul morire. Ovvio, si attacchi alla vita quando essa fosse vivere, quando anche fosse vivere vegetalmente e basta. Chi se ne frega dei rapporti sociali, delle amicizie, dell'amore, basta che non si crepi, poi va bene stare tutta la vita dentro agli arresti domiciliari sanitari. Neppure dei morti, aggiunge, ci deve importare, tanto sono morti, non servono più alla nostra nuda vita, se muoiono saranno seppelliti in una fossa, il funerale non si usa più, sei matto? Sarà pieno di untori, nuda morte per nuda vita. I tried. mi ha incuriosito. Appena attacca mi vado a leggere altro del filosofo che di questo passo sarà arrestato per terrorismo. Non stupisce che per il virus si parli di guerra. I provvedimenti di emergenza ci obbligano di fatto a vivere in condizioni di coprifuoco, ma una guerra con un nemico invisibile che può annidarsi in ciascun altro uomo è la più assurda delle guerre. È in verità una guerra civile. Il nemico non è fuori, è dentro di noi. Squilla di nuovo, è ancora lui. È impegnato? Posso dirle un'altra cosa? E continua Paolo, il bipolare Paolo, anzi no, il ciclotimico Paolo, dice: non stiamo combattendo un virus, dottore, qui stiamo combattendo noi stessi. Sa qual è la verità? La verità è che da un po' tutti questi rituali ci avevano stufato, ma non sapevamo che fare. Il lavoro, la scuola, lo sport, soprattutto il calcio, le uscite, gli aperitivi, il cinema, il ristorante, le passeggiate, lo shopping, gli amanti, i premi letterari, le presentazioni libresche, i festival, le sagre, le feste patronali, carnevali, l'Olimpiadi, tutto questo assembramento di umanità, tutto questo obbligo di socialità, tutto questo consesso umano, tutte queste conoscenze, contatti, amicizie, like, tutto ci aveva strarotto i coglioni. Per un po' continua, e in pieno trans apocalittico, lo lascio dire, continueremo nel virtuale per un po', anzi si accentuerà il consumo di internet, dei social, dei post, dei like. Poi, senza che il virtuale abbia una continuità reale nel mondo di fuori, senza che si possa toccare qualcuno, il gioco degli hikikomori, di questa umanità ridotta a una serie di monadi hikikomoriche, non reggerà a lungo. Inizierà la solitudine. Non rispondere a uno, poi a un altro ancora, finché il silenzio darà da podromo alla follia. Tutti si ordineranno delle carabine con cui di nascosto del proprio balcone, invece di cantare azzurro Fratelli d'Italia, ogni tanto schioppetteranno all'untore potenziale che ancora osa uscire, passeggiare, correre, portare a spasso il cane. E dopo ancora, quando nessuno più uscirà, inizierà il tiro al piccione coi fucili di precisione da una casa all'altra. Tutti prenderanno l'abitudine a non accendere le luci, a tenere basse le serrande, ordineranno porte antisfondamento e serrande a prova di pallottole. Il processo di autosegregazione per i sopravvissuti sarà completo. Fatto ciò, seguirà, senza più un nemico visibile fuori, l'accoltellamento del nemico interno, sgozzamenti, soffocamenti, precipitazioni tra membri della stessa famiglia, di cui ne resterà uno solo. A quel punto, l'unico superstite di ogni famiglia, siccome neppure più le consegne a domicilio saranno possibili, dovrà per forza uscire, e le strade saranno popolate dai più feroci, i sopravvissuti che hanno già ucciso i propri familiari, che vanno a caccia, sbronzi di furia e omicidia. La caccia è aperta, il virus non ci ucciderà, dicevo, per infezione fisica, ma per infezione psichica. Ogni tanto ricevo dei messaggi WhatsApp o SMS molto laconici. Dottore, ma lei che studia la psicologia delle masse, l'ha capito perché le persone ai balconi cantano l'inno di Mameli? No, forse perché il virus gli ha già dato alla testa, ma non glielo dico. Intanto oggi 20 marzo sono andato a correre, voglio farlo prima che inizi il divieto anche per correre. Entro nel parco degli acquedotti e non c'è anima viva. Un parco immenso di 240 ettari percorsi da nemmeno mezza dozzina di runner, quasi fuori legge, tra cui io. I romani tutti in casa. Io allungo 10 km in libertà, riempio il mio cranio della dose di endorfine che mi è necessaria, che mi spetta, che mi merito, con cui da 40 anni almeno mi drogo. Endorfine da corsa che da 20 anni prescrivo alle persone depresse, ansiose o incazzate per non dar loro antidepressivi, ansiolitici o stabilizzatori dell'umore, quasi sempre funziona. Ora però, dice il ministro dello sport, uno che finora lo sport sembra averla visto solo in televisione, se le persone continueranno a correre dovremo proibire pure la corsa. Nuda vita, ripeto, è nuda vita questa. Se la polizia e i carabinieri non mi prenderanno, sento l'altoparlante del grande fratello che ripete: restate a casa, restate a casa, restate a casa. Sarò ancora un efficiente psichiatra del Servizio Sanitario Nazionale Italiano, capace di trattare con la giusta calma, pazienza, gentilezza, empatia gli agitati e depressi. Se dovesse andar male, se mi prenderanno, ci sarà un criminale in più e un medico in meno sul suolo italiano. Ci penso mentre corro, solitario come un appestatore, sono ora più che mai Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Al mattino sono uno degli angeli stucchevole, contentino, con cui ci prendono per il culo mentre ci espongono a rischi senza maschere adeguate, senza tamponi. Noi no, e calciatori sì, che salvano persone in prima linea, imbrattato in un pronto soccorso. Di pomeriggio sono un demone, un tore che, siccome corre in un parco immenso e desolato, può ungere il mondo. Mentre sto per rientrare nei miei arresti sanitari, una delatrice mi indica. Con quel dito secco la riconosco, lo stesso tipo antropologico, lo stesso archetipo di essere umano che prima se la prendeva coi migranti o coi rom, ora deve per forza, sobillata dalla televisione, trovare un nuovo capro espiatorio. E in questo momento sono io, dice, indicandomi agli altri in fila. È andato a cuore, non lo capiscono che non devo ancora. I guardiani della nostra nuova dittatura sanitaria. Faccio un esperimento, metto questa frase su Facebook, voglio vedere che abbocca, come si divide la mia bolla. Anche gli insospettabili mi biasimano, persino una collega di buonsenso mi scrive: il diritto, o meglio la libertà del runner di correre, non è meno importante della mia di passeggiare o di quella degli anziani di uscire e camminare all'aperto. Se tutti ci sentissimo liberi di fare altrettanto, sarebbero tutti in strada. Invece tu puoi continuare a correre perché la maggioranza si sacrifica in nome di un interesse che dovrebbe prevalere, cioè quello per la collettività. Qui capisco che non ce la faremo, ha ragione Agamben. In nome della nuda vita siamo disponibili a farci espropriare di tutto, tra un poco anche dell'aria. Le prove tecniche di dittatura sanitaria stanno andando benissimo, non abbiamo speranza di farcela. Near the station, black roof country, no gold pavements, tired starlings, silver horses ran down moonbeams in your dark eye. Dawn light smile on you leaving my content. The station. Platform ticket, restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station. As I walked out, felt my own need just beginning. le 20 e 22 minuti, ritorniamo in diretta con la radio Il Tempo del Colera, Radio Contatto, e ringraziando il Reverendo per questa interpretazione fenomenale di questa lettura tratta da Carmilla Online, blog di letteratura sociale. Grazie. Il mio microfono continua. Perché adesso è silenziato. Prova. Il microfono continua a non funzionare. No, ora forse sì, ma chissà. Censura, comunque... la censura, Reverendo. Sto volando sui continui problemi tecnici di cui siamo perseguitati qui nello studio di Frittole, soprattutto soffrendo della mancanza del caro dottor Io, e direi che possiamo continuare. Dai, sì. Voi non lo sapete, ma nel frattempo ci ha raggiunte una cara amica e compagna, la nostra Rosa Canina, che è arrivata dal mercato. Ciao a tutte e tutti. Ciao Rosa, benvenuta. Ciao Rosa. Grazie. E quindi possiamo sbizzarrirci con le domande su come è andato il mercato di oggi in non Piazza Tasso, ma Piazza del Carmine. Infatti poi tra le tante cose, quelle che cerchiamo sempre di più di trovare, che è permesso fare, che riusciamo decentemente a portare avanti quella vita che non è nuda vita, ci si è riusciti in questo periodo a riattivare il mercato di Piazza Tasso, spostandolo purtroppo in Piazza del Carmine. Non ha potuto mantenere la sua sede originale, però comunque oggi siamo riusciti a rifarlo. E Rosa, volevo chiederti un attimo come se ci facevi un attimo una panoramica di questa storia qua, come si è voluto, come si è arrivati oggi a fare il mercato in Piazza del Carmine e San Frediano. Sì, allora il mercato di Piazza Tasso è stato bloccato in quanto la piazza è considerata parco pubblico e quindi... Ma è una piazza? Ma è anche un parco. Ma c'ha degli alberi e dell'erba. E non ha un cancello soprattutto, infatti non sappiamo come sia stata chiusa la piazza, almeno io non ho notato nulla di diverso dal solito, ma voci di corridoio ci dicono che il capannello dell'acqua potabile è stato chiuso. Il fontanello... Ah sì, è vero, perché c'è anche la guerra ai fontanelli del sindaco Nardella, gli infami fontanelli portatori del contagio. Beh, perché creano assembramenti. Aggregazione. Quindi sì, insomma, il mercato in Piazza Tasso era stato bloccato, è stata fatta una richiesta all'ufficio tecnico per avere spostato il mercato in un'altra piazza e ci è stata data Piazza del Carmine, che tra l'altro è una piazza che a livello scenografico ci piace molto, quindi siamo stati molto contenti di essere spostati lì. Beh, una piazza vuota, enorme, senza niente. Sì, è stata una location carina, ovviamente, cioè una location carina per persone che si tengono a un metro e mezzo di distanza l'una dall'altra, ma voglio dire, stava bene il mercato comunque, Piazza del Carmine, cioè è passato della gente, poi come è andato e come ci si è organizzati anche come Genino Clandestino in questa modalità un po' inedita per fare appunto il mercato in questa situazione. Senti, il mercato, visti i tempi che corrono, è andato benissimo. C'erano una decina di banchini e sono passati qualche decina di coproduttori, molto contenti di ritrovare il mercato, se ben spostato in un'altra location, e molto contenti di poter appunto comprare qualcosa di genuino, diverso da tutta la merda che si ritrova nei vari supermercati che siamo costretti quasi tutti ad acquistare ora, visto che non possiamo uscire dal nostro comune per recarci nei luoghi dove acquistiamo il cibo che preferiamo consumare. E soprattutto è stato bello vedere gli sguardi delle persone dietro le mascherine, perché poi ovviamente la maggior parte dei nostri coproduttori indossavano mascherine e appunto stavano dietro una linea a un metro di distanza dal nostro banchino, come la legge in questo momento ci impone, ma allo stesso tempo mostravano appunto una grandissima gioia anche in questo minuscolo momento di incontro e in questo minuscolo appunto gesto di scambio che sono sempre stati abituati a fare negli ultimi 2 anni e che hanno potuto fare anche oggi. Dai, è bella storia, quindi insomma un mercato tutto sommato, cioè, tutto, per i tempi che corrono, anche quindi è andata abbastanza bene, sono molto contento di questa cosa. Sì, un segnale di umanità in questo momento così, boh, secondo me disumano. Aggiungerei che c'era pioggia, vento che si stava portando via i nostri gazebo, la pioggia che ha annaffiato i nostri banchini, quindi è stato veramente un mercato complesso dal punto di vista logistico, ma enorme dal punto di vista appunto emozionale, di gioia, di... così, di socialità, per quanto si possa parlare di socialità in questi giorni, ecco. Io richiederei alle autorità di intervenire per tutelare la nostra sicurezza e salvaguardarci dalla pioggia e dal vento. Fare una mega copertura stabile e un mercato stabile in Piazza del Carmine. Sì, ma una copertura stabile sul mondo, però, quindi siamo a posto per tutta la vita. Oh, finalmente non ci pensiamo più. No, un'altra cosa volevo dire, ma cioè, a margine di questa cosa qua, si è riusciti a fare il mercato qui a Firenze, in tante altre città, però a Bologna, anche a Roma, per esempio, non hanno proibito i mercati contadini. Non si capisce poi con quale tipo di logica abbia guidato questa scelta, impedire appunto che fosse possibile lo svolgimento dei mercati contadini, che sono dei venditori, insomma, cioè che sono dei rivenditori di generi alimentari. Comunque, in questi giorni qua è un po', sta un po' infatti montando anche una protesta di tanti piccoli produttori anche dentro a Genio Clandestino, in particolar modo a Bologna. Insomma, c'è stata anche la pubblicazione di una lettera aperta al sindaco di Bologna perché ritorni sui suoi passi in modo da permettere il regolare svolgimento dei mercati contadini, che ricordiamo a Bologna, Campi Aperti, che gestisce 7 mercati contadini ogni giorno, per cui c'è un mercato in un quartiere diverso di Bologna, e sono oltre 200 produttori che in questo momento vedono bloccata la possibilità di vendere i loro prodotti all'interno dei mercati contadini. Quindi, cioè, insomma, è molto importante che qua a Firenze si sia riuscito a rifarlo, ma comunque questa è una battaglia che sta andando avanti in questi giorni qua. Ecco, non so, insomma, sì, dobbiamo anche ricordare che tantissimi produttori che fanno parte di Genuino Clandestino, al di là della questione mercati, si ritrovano ad affrontare delle questioni pratiche gigantesche, anche solo perché magari il terreno che stanno coltivando non è adiacente alla loro casa e quindi si devono spostare e non hanno nessun tipo di certificazione per dimostrare che si stanno spostando per motivi di lavoro, che non riescono a consegnare i loro prodotti al di fuori del comune perché appunto non hanno partita IVA e non hanno possibilità di superare i controlli. Il comprovato motivo, E quindi sì, piano piano ci stiamo riorganizzando per sopperire a queste problematiche, ma non è per nulla semplice. Dall'altra parte possiamo essere contenti perlomeno di sapere che tutti quanti abbiamo perlomeno di che mangiare, ecco, e sappiamo che come viene coltivato quello che mangiamo. Sì, ma come in questo periodo, infatti, assume sempre più rilevanza anche poi il discorso della qualità del cibo che possiamo consumare e magari anche della prossimità. Comunque, dai, speriamo che questa battaglia un po' che sta montando in questi giorni porti a dei risultati, insomma, soddisfacenti, e che sia foriera di nuovi ragionamenti anche tra produttori, tra i coproduttori, speriamo soprattutto, e che si riesca a vedere un risvolto positivo in questa situazione, rivendicando appunto l'accesso che sia il più libero possibile e che sia garantito ad un cibo alternativo a quello della grande distribuzione, e che e anche che sia data la possibilità a dei produttori di poter continuare ad avere una sostenibilità economica attraverso la vendita dei prodotti. E dai, vedaci dai un pezzo. Va bene, grazie Rosa. A voi. Dai, è forte Piazza del Carmine, dai, è forte Genuino Clandestino. Sì, ricordatevi quindi, venerdì pomeriggio andate a fare la spesa là. Dalle tre e mezza alle sei, perché senza poi c'è cioè, pioggia. Senza pioggia. Si spera. Ma col coprifuoco. Ah, un'ultima cosa, aspettate, prima di... E questo mercato qua, però se non sbaglio, anche è stata offerta la possibilità di partecipare a questo mercato anche ad altri produttori. Ah, pensavo via streaming. Sì, si può comprare online. No, in che senso? No, nel senso che era il mercato, no, del nodo di Genio Clandestino, però c'è stata una chiamata anche ad altri produttori che si sono visti chiusi i loro mercati e per cui si è pensato di fare anche questa operazione solidale nei loro confronti, per cui offrire loro un posto anche nel mercato. Non so se questa cosa si poteva dire oppure no? Ancora oggi non abbiamo visto nessuno, però sicuramente ci stiamo organizzando anche per portare i prodotti di altri produttori che non possono partecipare, sempre per il discorso che facevamo prima, e poi sì, aspettiamo l'arrivo di altri produttori dei mercati locali che sono stati chiusi. Sì, per ora credo che sia stato, diciamo, aperto l'accesso ai produttori dell'Isolotto, che anche quello è un mercato che è stato sospeso per il momento, e quindi facendo parte della stessa rete possono venire in Piazza del Carmine, però a quanto ne so appunto gli altri produttori di altri mercati si stava un po' capendo come gestire questa cosa, però sì, l'idea era molto bella quella di dare un nuovo spazio. Bene, vai, grazie Rosa. Allora grazie Rosa, grazie a voi. Dai, forza Radio Contatto, che non è Radio Contado. Ah no? Rimango guardingo nel mio ramingo, giro vagare, chi può mandarmi a cagare deve gridare taglia l'untore. Il mio trip al momento, un unguento sanguinolento che stendo su pareti di cemento, che intendo elevare a monumento alla stupidità, nell'intento mi cimento con facilità. Cinica figura nell'oscura notte, sporco le porte, porto la morte, chi se ne fotte. Se mi beccano mi spaccano di botte, come minimo mi ritrovate cliccato su rotten. Il mio cuore batte più delle battone quando porto confusione nella popolazione, ne traggo giovamento massimo, panico al prossimo ed il prossimo potrebbe essere chiunque. Cenere, ruggine, sangue di vergine, lingua di serpe, saliva e fuliggine. Il mattino l'oro in bocca per me e la cacca in bocca per la gente sciocca che s'annusa, s'accusa e s'arrocca, timorosa d'essere presa pure in chiesa, stanata e lapidata, vittima di illegittima difesa, lesa da una percossa, passa il monatto e la tossa in un carretto diretto alla fossa. Io no, io intercetterò come un pivot la mossa della ressa anche quando a me che bussa. No, non apro se non mi scopro per il ruolo che ricopro di capro espiatorio. Mi consegnerò se avrò finito il repertorio che invento nel mortorio del mio laboratorio. Per farmi fuori i miei cari ci vogliono sicari sicuri, loschi figuri, temerari miei pari. Se sono così rari fatemi il favore, chiudetevi in casa che è ritornato l'untore. Cenere, ruggine, sangue di vergine, lingua di serpe, saliva e fuliggine. Taglia l'untore, sterco di capra, occhio di pavone, miscia veglietto perfetto, per questo mi aspetto un paletto nel petto, mi dileguo, mi diletto. Bentornati, bentornate su Radio Contatto. Giustamente ci stavamo scambiando qualche aneddoto divertente su questo mercato di Piazza del Carmine, ma non si può dire, quindi sono fuori onda. Ci autocensuriamo. No, infatti siamo troppo cattivi. Venite a trovarci. E volevo aggiornare la situazione del pad di Wombat che non funziona. Per cui dovete assolutamente scriverci una mail, ma oggi siamo molto tristi perché non ce n'è arrivata neanche uno. Mannaggia la mannaggia. Sì, veramente un'ora per caricare il server qua della mail e poi neanche una. Radio Contatto veramente è reciproca, cioè vuol dire che dovete anche contattarci. Infatti, noi stiamo qua a prenderci i germi l'un l'altro, ci tocchiamo a ogni stacchetto musicale e voi non vi fate. Vabbè, basta. Comunque, ti ricensuriamo, se no, ricensurate. No, giustamente, Modesta, dicevi che questa canzone di Caparezza era, cioè, l'avranno messa a tutti in questi giorni, va bene, però dobbiamo dire che è simpatica. E secondo me ci siamo anche un po', cioè, siamo arrivati alla frutta. Cioè, secondo me abbiamo fame e vogliamo andare a cena. Sì, mi sbaglio. No, io ho fame e freddo, perché qua a Frittole fa più freddo che altrove. Governo ladro. Così, dovevo dirvelo. Governo ladro. Frittole, comunque, noi sì, ogni volta che dobbiamo venire qua a Frittole dobbiamo camminare 2 giorni ininterrottamente, per cui portateci solidarietà. In realtà ci stiamo attrezzando per fare la quarantena qua e non spostarci mai più. Sì, qua in studio proprio della radio, una diretta perpetua. Va bene, vabbè, raga, allora direi che abbiamo detto tutto per oggi. Sì, ricordiamo i nostri così contatti, recapiti: wombat.noblogs.org per tutto, grazie a mamma Wombat. E anche per ascoltare in streaming tutte le trasmissioni di Radio Wombat e ovviamente tutte le dirette speciali che dalle 7 alle 9 di ogni giorno in varie regie dislocate nelle varie case in cui sono reclusi sanitariamente tutti i redattori di Wombat. Vi manderanno in onda piacevoli cose, letture, stimoli, ma perché no, anche cose un po' pesette, come è stata questa puntata. Ogni giorno, cazzo, ogni giorno su Radio Wombat. Quindi, perché se li fosse perse le scariche, vado sul sito wombatnoblogs.org e può tirare giù tutti i podcast che vuole, oltre al palinsesto normale di mamma Wombat. Poi vi ricordo la mail, così magari per la prossima diretta speciale qualcosa ci scrivete: frittole@gattini.ninja. Oh, grazie Moni. Un bacione a tutti e tutte da Reve. Da Bepi Manin. E anche da Modesta. Ciao Moni. E buona serata. mi sono scordato di dire di restare sintonizzate su Radio Wombat, perché tra un'ora circa, alle 9:30, va in onda Uhuru, una fantastica trasmissione in diretta a Wombat, quindi rimaneteci.